Troverai del mite affir, ripulge il sole prima venir. Si culla la primavera, all'ora in braccia in mezzo in fior. Parece attorno il tuo respir, se l'occhio tuo si chiuderà. Con armi dolce il mondo a stringere a sé, le torbe invernale cede al fumo poter, e ai fieri suoi colpi obcedere, la forza fatale che un di noi separò. Il fratello, ma racchiusa lei chi dica dov'è.